Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Non esiste niente di meglio dell'alcol per superare le barriere tra le persone, scrive Kingsley Amis nel suo Taccuino di un vecchio bevitore, pubblicato nel 1972. Nel commentare la nuova edizione italiana proposta da Baldini Castoldi Dalai Editore, Roberto Bertinetti evidenzia il rapporto particolare che gli inglesi hanno tra le bevande alcoliche e i luoghi dove vengono consumate, veri templi dove le classi sociali si mescolano tra loro. La letteratura e l'alcol rappresentarono per tutta la vita i principali interessi di Kingsley Amis. Narratore prolifico, ma assai diseguale sotto il profilo della qualità artistica, non è caduto nell'oblio in virtù del successo planetario ottenuto in seguito dal sulfureo figlio Martin, che al rapporto con il padre ha dedicato nel 2000 il libro Esperienza, dove lo definisce un tipico snob che adorava andare controcorrente in politica per non mostrarsi troppo vicino alle idee care alle masse. Amis si schierò infatti a sinistra nel corso dei 50, per diventare poi conservatore e battersi per il mantenimento dell'apartheid sudafricana. Morì ultra settantenne nel 1995, dopo aver dato alle stampe una quarantina di opere di narrativa e saggistica, in gran parte delle quali l'alcol e gli effetti che è in grado di produrre hanno un ruolo non secondario. Sotto questo profilo, uno dei testi più significativi è Il taccuino di un vecchio bevitore, in cui raccolse nel 1972 gli interventi pubblicati con cadenza quasi settimanale da un quotidiano londinese, brillante sintesi delle due passioni della sua esistenza ristampata lo scorso anno in Gran Bretagna e in America, dove ha raggiunto le posizioni di vertice delle classifiche. Al pari di Winston Churchill, ricorda Christopher Hitchens in una nota introduttiva, anche Amis poteva vantarsi di aver ottenuto dall'alcol molto più di quanto l'alcol non avesse ottenuto da lui, visto che costituì sempre una costante fonte di ispirazione. Su quale sia il merito maggiore da riconoscere all'alcol, Amis non ha incertezze. La razza umana, sottolinea, non ha escogitato altri metodi più efficaci per dissolvere le barriere tra le persone, far conoscenza e rompere il ghiaccio. Senza contare, aggiunge citando un imprecisato team di ricercatori statunitensi, che in assenza del sostegno offertoci dall'alcol, la società occidentale sarebbe andata incontro a un collasso certo all'incirca nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Per un lettore italiano, l'elemento di maggiore interesse del volume consiste nell'abilità di Amis nel sintetizzare l'atteggiamento degli inglesi nei confronti delle bevande alcoliche e dei luoghi dove vengono consumate. Il pub, che nel Regno Unito ha una storia plurisecolare, è così il regno della birra nel quale esponenti della working class e rappresentanti di strati sociali più elevati possono trovarsi fianco a fianco senza alcun imbarazzo e conversare amabilmente, mentre nei club e nei salotti aristocratici o borghesi questa bevanda plebea è bandita e si chiacchiera tra eguali sorseggiando un cocktail o un bicchiere di vino. Per carattere, Amis non amava troppo il caos del pub, ma le sue osservazioni sui motivi alla base delle regole non scritte di comportamento che i britannici rispettano da tempo immemorabile, l'abitudine ad esempio di ordinare e consumare al banco, anticipano le dotte analisi sullo stesso tema di alcuni antropologi. Permettere a sconosciuti, che altrove si ignorerebbero, di stabilire un contatto e di parlarsi, per alcuni minuti, prima di tornare alla propria routine quotidiana. Purtroppo i pub tradizionali, lamenta lo scrittore, stanno sparendo. La musica pop viene diffusa ad alto volume e così sta diventando impossibile fare ciò per cui si è andati al pub, scambiare due battute con qualcuno. Logico allora che Amis dedichi larga parte delle sue riflessioni a quanto viene di norma consumato all'interno dei club o delle mura domestiche e offre in abbondanza consigli su come scegliere i vini o preparare cocktail adatti a ogni occasione. Il gusto per la battuta intelligente e la sincera passione per il tema trattato rendono il libro un imperdibile trattato sull'ermeneutica del bere e una squisita autobiografia mascherata. Ci sono capitoli assolutamente incantevoli che danno conto in poche pagine del talento di Amis nel costruire una filosofia del consumo alcolico, lasciando intuire la sua importanza decisiva per i riti mondani celebrati dall'upper class britannica nel rispetto di regole rimaste in sostanza, immutate per secoli. Il taccuino di Amis è un volume incantevole che può venire apprezzato anche dagli estremi in virtù delle eccellenti capacità affabulatorie del suo autore e delle notizie che, sia pure in maniera indiretta, offre sul profondo legame tra l'alcol e gli inglesi. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Roberto Bertinetti dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Sul risultato del referendum con il quale la Svizzera ha detto no alla costruzione di nuovi minareti, si è parlato fin troppo nei giorni scorsi e spesso a sproposito. Ma alcune cose importanti non sono state dette, soprattutto da parte della Santa Sede, come scrive Giulio Meotti sulle pagine del Foglio. Nel referendum sui minareti che si è svolto nella più antica democrazia europea, la Svizzera, la Santa Sede ha assunto la stessa posizione di chi, come i Verdi e la sinistra europea, alla Corte dei diritti umani di Strasburgo ha patrocinato la causa contro i crocefissi nelle scuole italiane. Mentre la stampa italiana sposava la tesi xenofoba, urlava contro i fascisti alpini e eleggeva l'islamista sul libro paga dell'Iran, Tariq Ramadan, a difensore della libera spiritualità interreligiosa, era sconfortante notare come il Vaticano, per bocca dell'Osservatore Romano e del Pontificio Consiglio per i Migranti, avesse adottato la stessa interpretazione della maggioranza degli opinionisti più conformisti. Come Tahar Ben Yellun, con i suoi infringimenti sulla convivenza, che vogliono far credere ai lettori che in Svizzera la libertà religiosa è stata messa al bando e che non è più possibile professare come prima l'Islam. È grottesco pensare a come l'Episcopato abbia usato le stesse parole dell'Organizzazione della Conferenza Islamica e di Izzedin El-Zir, portavoce dell'UCOI, l'Organizzazione dei Fratelli Musulmani. La Santa Sede ha fatto finta di credere, quando questa verità la sta vivendo nell'estinzione di tutte le comunità cristiane del Medio Oriente, che l'Islam è pura fede, e non anche e soprattutto un sistema politico con un obiettivo grandioso, la conquista degli infedeli, in nome di quella esiziale e poderosa divisione del mondo in due parti, il Dar al-Islam, il territorio dell'Islam, e il Dar al-Harb, il territorio della guerra. Valga per tutti il commento del premier turco Erdogan. I minareti sono le nostre baionette, le cupole i nostri caschi, le moschee le nostre caserme e i credenti il nostro esercito. Uno dei primi atti di revanscismo islamico del premier contro il kemalismo è stata proprio la reintroduzione degli altoparlanti sui minareti, in moschee dove si insegna che ebrei e cristiani sono nel migliore dei casi invitati, misafir, e nel peggiore infedeli, gavur. La Chiesa Cattolica, anziché invocare la messa al bando di fatwe, che ancora oggi giudicano illecita la vendita della terra sacra ad Allah ai non musulmani, ha proferito rassicuranti affermazioni di circostanza, come fosse Amnesty International. Con il voto sui minareti, la Chiesa avrebbe dovuto porre il tema della reciprocità, prima che sia troppo tardi, e come aveva fatto Benedetto XVI nel recente incontro con l'ambasciatore marocchino. Sempre che tardi non lo sia già. I territori palestinesi erano in origine al 20% cristiani, oggi al 5%. Un secolo fa in Turchia c'erano 2 milioni di cristiani, ne rimangono solo alcune migliaia. I cristiani erano un terzo della popolazione siriana, oggi meno del 10%. Erano il 55% in Libano, oggi sono sotto la soglia del 30%. Il referendum in Svizzera era volto a impedire la costruzione di nuovi minareti, in un paese dove al momento ne esistono 4. Questo non ha nulla a che vedere con la libertà di professare la religione in luoghi di culto. La libertà religiosa è il grande e meraviglioso abisso che separa le democrazie liberali, l'Occidente tutto, dai regimi islamici più o meno moderati. In Svizzera esistono 200 moschee e nel referendum non si menzionava né l'opzione di eliminarle né l'opzione di bloccare la costruzione di nuove. Il messaggio arrivato dalla Svizzera è chiaro. Siamo una storica patria di esuli e perseguitati. A nessuno sarà interdetto il diritto di culto, ma basta con questo sistema di dominio collaudato da 14 secoli. Con il loro patriottismo referendario, gli elvetici, in modo pulito, non violento, democratico e liberale, hanno detto no alla resa all'islamizzazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Per chi suona il muezzin, dal Foglio del 2 dicembre.